merienda la cucina. Mamma, mamma, cos'è questo odorino che viene dalla cucina? E dimmi che cos'è. Pasta e fagioli. Ha ha ha.